Non possedendo più il mio cavallo, le mie passeggiate a piedi e senza cani erano molto silenziose e tranquille, ma mi restava la macchina e ciò costituiva una vera fortuna per me, perché in quei mesi avevo tante cose da fare. Mi preoccupavo della sorte che attendeva i miei squatters. I nuovi proprietari della fattoria volevano abbattere la piantagione di caffè, tagliare gli alberi e vendere il terreno a lotti come terreno per costruzione. Gli squatters quindi non servivano più a nulla. Appena la vendita fu perfezionata, ebbero un preavviso di 6 mesi per lasciare la fattoria. Vissuti sempre nell'illusione che la terra appartenesse a loro, furono colti assolutamente di sorpresa da quella decisione imprevista. Molti erano nati là, altri erano venuti da piccoli con i genitori. Non ignoravano di dover lavorare per me 180 giorni l'anno con una paga di 12 scellini ogni 30 giorni. Nell'ufficio della fattoria c'erano tanto di registri. Non ignoravano neppure di dover pagare al governo una tassa di 12 scellini ogni capanna. Una bella somma per gente che con poca spesa in più avrebbe potuto farsi 2 o 3 capanne d'erba, a seconda del numero delle mogli. Ogni moglie per il chicuio dovrebbe avere la sua capanna. A volte, infine, per punirli di qualche trasgressione, li avevo minacciati di cacciarli dalla fattoria e quindi non potevano ignorare che la loro posizione non era eterna e immutabile. Inghiottivano male la faccenda della tassa sulle capanne. Per incassare i soldi per conto del governo mi ci voleva del bello e del buono. Spesso mi seppellivano di chiacchiere, ma questo, ai loro occhi, faceva parte delle comuni vicissitudini della vita. Non vedevano perché non si potesse trovare una scappatoia qualsiasi. Non riuscivano a capire che in fondo a tutto questo vi era un principio universale e che codesto principio, al momento opportuno, si sarebbe fatto valere, implacabile e schiacciante. Si ostinavano a considerare la decisione dei nuovi proprietari solo come uno spauracchio che col coraggio si poteva ignorare. Sotto certi aspetti, per la mentalità indigena, i bianchi sono ciò che per noi è l'ideale di Dio. Una volta, facendo un contratto con un mercante di legna indiano, trovai la frase atto di Dio. L'avvocato cercò di spiegarmi l'espressione, per me insolita. No, no, signora, disse, lei non ha afferrato il senso della frase atto di Dio è ciò che appare completamente imprevedibile, fuori da ogni regola e da ogni buon senso. Quando finalmente si resero conto di dover abbandonare sul serio le loro shambas, gli squatters presero a venire da me tutti tetri, a gruppetti. L'imposizione a loro pareva solo una conseguenza della mia partenza dalla fattoria. La mia sfortuna cresceva, finendo per coinvolgere anche loro. Non che me ne facessero una colpa, già ne avevamo discusso insieme, solo volevano sapere da me dove dovessero andare. Cosa mai avrei potuto rispondere? Gli indigeni, per legge, non possono acquistare la terra. E io d'altronde non conoscevo una fattoria abbastanza grande da accoglierli come squatters. Quando avevo cercato di interessarmene, mi era stato suggerito solo di mandarli nella riserva Kikuyu. Là avrebbero potuto installarsi. Ma c'era abbastanza terra disponibile nella riserva per portarci tutte le bestie? Mi chiesero. E avrebbero veramente potuto sistemarsi tutti nello stesso posto? Volevano restare insieme, non si volevano separare. Quella loro richiesta mi sorprese. Alla fattoria non andavano molto d'accordo, pareva avessero ben poco da spartire. Ora invece venivano tutti i grandi, boriosi proprietari di greggi come Kategu, Kaninu e Mauge, la mano, per così dire, con gli umili contadini diseredati come Waweru e Chota, che non possedevano neppure una capra, tutti accomunati dallo stesso spirito, decisi non solo a conservare le loro vacche, ma a restare uniti. Non si contentavano di un posto dove vivere, pretendevano da me la loro vita stessa. Strappare ad un uomo la terra dove è nato significa strappargli il suo passato, la sua identità, le sue radici, togliergli ciò che è abituato a vedere, ad aspettarsi di vedere. È un po' come portargli via gli occhi. E questo vale soprattutto per i popoli primitivi, tra virgolette. Quanta strada sono capaci di ripercorrere gli animali, quanti pericoli e sofferenze affrontano per tornare nei luoghi a loro noti, per ritrovare la loro identità perduta. Quando erano stati costretti ad abbandonare la loro antica terra, a nord della ferrovia, per stabilirsi nell'attuale riserva, i Masai avevano portato con sé anche i nomi delle colline, delle pianure e dei fiumi. per trasferirli alle colline, alle pianure e ai fiumi della loro nuova dimora, donde nascono frequenti equivoci per i viaggiatori. Serbando religiosamente le loro radici troncate, quasi unguento per la ferita dell'esilio, avevano cercato nella nuova terra di mantenere vivo il passato con una formula. Ora, lo stesso istinto di autoconservazione creava fra i miei squatters un attaccamento reciproco. Costretti ad abbandonare la loro terra, volevano almeno accanto gente che l'avesse conosciuta, che potesse testimoniare della loro identità. Per qualche anno sarebbero stati capaci di rievocare la geografia e la storia della fattoria, ciò che uno avesse dimenticato sarebbe rimasto vivo nella memoria dell'altro. In quel momento sentivano pesare su di loro la vergogna dell'estinzione. Vai, Msabu, dicevano, vai a nostro nome, dai Selicali e fai in modo che ci permettano di portare con noi tutto il nostro gregge nella nuova terra e di restare insieme dovunque si debba andare. Ebbe inizio allora per me un lungo pellegrinaggio, una lunga questua che si protrasse fino alla mia partenza. Andai prima dai commissari distrettuali di Nairobi e Kiambu, poi al Dipartimento Indigeno e all'Ufficio Territoriale e alla fine dal governatore Sir Joseph Byrne, che era appena arrivato dall'Inghilterra e che quindi non avevo mai incontrato. Finii per dimenticare il motivo di quel pellegrinaggio. Mi pareva di essere trascinata, mio malgrado, come da una corrente marina. A volte dovevo trattenermi un giorno intero a Nairobi o recarmici 2 o 3 volte in uno stesso giorno. Sempre al ritorno trovavo qualche squatter di guardia davanti a casa. Non mi chiedevano nulla. Si limitavano a vigilare per trasmettermi con chissà quale magia la forza di resistere. I funzionari del governo si mostravano pazienti e gentilissimi. Se fosse stato per loro mi avrebbero accontentata subito, ma era veramente un problema trovare nella riserva Kikuyu una zona libera e abbastanza grande da accogliere tutta quella gente con il bestiame. Quasi tutti i funzionari, vivendo in Africa da anni, conoscevano bene gli indigeni. Mi suggerivano di persuadere i Kikuyu a vendere parte del loro bestiame, ma senza convinzione. Sapevano che nulla al mondo li avrebbe persuasi a un simile passo e che, costretti a portare le loro greggi in un posto troppo piccolo, di lì a qualche anno avrebbero creato infiniti guai coi vicini della riserva e infiniti grattacapi per il distretto. Ma quanto alla seconda richiesta, le autorità rispondevano che gli squatters non avevano nessun bisogno di restare insieme. Non è questione di bisogno, pensavo. Anche i nostri più miserabili straccioni hanno i loro bisogni superflui e così via. Gli uomini, secondo me, potrebbero venire classificati dal loro eventuale atteggiamento verso Relier. Non si può ragionare con Relier, come non si può ragionare con un vecchio Kikuyu. Relier esigeva sempre troppo da tutti, ma era un re. È vero che l'africano non ha consegnato la sua terra al bianco con munificenza regale, sono i bianchi che gliel'hanno presa con la scusa del protettorato. Il caso quindi è molto diverso da quello del vecchio re con le figlie. Ma non si dimentichi che non è molto tempo fa, in un'epoca ancora viva nella nostra memoria, gli indigeni furono padroni incontrastati nella loro terra, ignari dei bianchi e delle loro leggi. In quella loro esistenza mal sicura, la terra fu l'unica cosa sicura. Molti vennero portati via dai mercanti di schiavi e venduti, ma molti restarono. I primi esuli e schiavi nel mondo orientale avrebbero sognato i loro altipiani. Gli altri, i vecchi indigeni scuri dagli occhi limpidi, sono rimasti là, nella loro terra, col peso delle impressioni lentamente raccolte e ammucchiate nelle menti confuse, lineamenti della terra essi stessi, profondamente turbati dai grandi cambiamenti che si stanno svolgendo intorno a loro. Forse chiederanno a te dove sono, e tu dovrai rispondere con le parole di Kent: nel vostro regno, sire. Alla fine, proprio quando cominciavo a pensare che avrei dovuto continuare in eterno il mio pellegrinaggio per gli uffici del governo di Nairobi, seppi improvvisamente che le mie richieste erano state accolte. Il governo concedeva ai miei squatters un tratto del bosco della riserva di Dagoretti. Là si sarebbero potuti installare per conto proprio, non lontano dall'antica sede. Perdevano la fattoria, ma non la loro dignità e il loro nome come comunità. La notizia fu accolta con profonda Tacita emozione. Non si capiva dal viso dei Kikuyu se avessero sempre avuto fede o avessero disperato. Risolto il problema della loro terra, cominciarono a farmi una serie di richieste e proposte complicate, ma mi rifiutavo di ascoltarle. Sedevano ancora davanti alla casa, ma mi guardavano in modo diverso. Tale è il sentimento che gli indigeni hanno della fortuna e la loro fede in essa, che quando qualcosa è andata bene, sono convinti che tutto andrà bene sempre. Ormai, forse, credevano che non sarei partita più. Quanto a me, risolto il problema degli squatters, ero molto calma. Di rado ho avuto un tale senso di sollievo. Poi, dopo qualche giorno, cominciai a sentire che la mia opera là era conclusa. Ormai potevo andar via. Il raccolto del caffè era finito, il mulino fermo, la casa vuota. Gli squatters avevano la loro terra e, finite le grandi piogge, l'erba nuova cresceva già alta sulla pianura e sulle colline. Il mio piano segreto di cedere su tutte le questioni minori per resistere su quella che per me era la cosa veramente importante era fallito. Passo per passo avevo dato via tutto ciò che possedevo, quasi in riscatto della mia vita stessa, ma appena rimasta a mani vuote, il fato poteva sbarazzarsi di me in un soffio. La luna piena in quei giorni brillava nella stanza nuda, specchiando sul pavimento la sagoma della finestra. Forse, pensai, stava scrutando all'interno, chiedendosi quanto avevo intenzione di restare in quella casa da cui tutto il resto era partito. Oh no, mi rispose la luna, il tempo conta ben poco per me. Mi sarebbe piaciuto restare finché gli squatters non si fossero installati nella loro nuova sede, ma ci voleva tempo perché potessero prenderne possesso. Chissà quanto avrei dovuto attendere. Addio. Fu allora che i vecchi dei dintorni decisero di tenere un angoma in mio onore. Un tempo le ngomas degli anziani erano cerimonie grandiose, ma oramai avevano luogo di rado. In tanti anni non ne avevo vista nemmeno una. M'era sempre rincresciuto perché i Kikuyu mostravano di considerarle con grande rispetto. Scegliendo la fattoria come teatro per la danza dei vecchi, si intendeva farle onore. La mia gente non parlava d'altro. Persino Farà, di solito sprezzante verso le ngomas indigene, quella volta rimase colpito dalla risoluzione dei vecchi. Sono vecchissimi, Memsahib, diceva, proprio vecchissimi. Faceva un effetto strano sentire i giovani leoni Kikuyu parlare con reverenza e soggezione dello spettacolo che i vecchi danzatori si preparavano a dare, ma ignoravo una cosa, che quelle ngomas erano state proibite dal governo. Il perché non lo so. I Kikuyu dovevano essere al corrente della proibizione, ma preferirono fare come se non esistesse. Forse pensarono che in un periodo di tanti sconvolgimenti divenivano lecite cose altrimenti interdette, o forse se ne dimenticarono davvero nel tumulto delle passioni che la prospettiva del ballo aveva risvegliato. Non cercarono neanche di tenere la notizia segreta. L'apparizione dei vecchi danzatori fu uno spettacolo raro e sublime. Saranno stati un centinaio. Giunsero tutti insieme. Dovevano essersi raccolti prima in un posto vicino. I vecchi indigeni, sempre freddolosi, sono di solito imbacuccati di pelli e coperte, ma quella volta erano nudi, come per affermare solennemente la formidabile verità. Si erano ornati e dipinti con discrezione, ma alcuni portavano sul vecchio cranio calvo le grandi acconciature di penne d'aquila dei giovani danzatori. Non avevano bisogno di ornamenti, la loro figura si imponeva da sola. Non cercavano, come le vecchie beltà delle sale da ballo europee, di darsi per forza un aspetto giovanile, anzi, per loro e per gli spettatori. Il significato e l'importanza di quel tipo di ngoma consiste proprio nella vecchiaia dei danzatori. Strane striature di gesso, come non ne avevo mai viste, percorrevano le membra deformate in tutta la loro lunghezza, quasi ad accentuare, con inflessibile sincerità, la curva delle ossa irrigidite e fragili sotto la pelle. I vecchi avanzavano lenti, a tempo, in una sorta di preludio, con dei movimenti tanto strani che mi chiesi a quale danza avrei mai assistito. Guardandoli mi tornò in mente un'idea che già avevo avuto altre volte. Non ero io ad andarmene. Io non avevo il potere di lasciare l'Africa, ma era l'Africa che lentamente, gravemente, si ritirava da me come il mare nella bassa marea. Quelli che stavano passando in processione erano miei forti e muscolosi giovani danzatori di ieri e di avantieri. Avvizzivano sotto i miei occhi e se ne andavano per sempre. Se ne andavano nel loro stile, gentilmente, con una danza. S'erano trovati bene con me, come io con loro. I vecchi non dissero una parola. Risparmiavano le forze per lo spettacolo. Avevano appena formato un cerchio per la danza quando arrivò un ascaro con una lettera per me, una lettera da Nairobi in cui si proibiva l'angoma. Non capivo. Non mi sarei mai aspettata una cosa simile. Dovetti leggere il foglio due o tre volte. Anche l'ascaro era impressionato dalla solennità dello spettacolo da lui interrotto. Non disse una parola, né ai vecchi né alla gente della fattoria. Non si pavoneggiò, non si dette delle arie come fanno in genere gli ascari a cui piace ostentare con gli altri indigeni il loro potere. In tutta la mia vita in Africa non ho mai passato un momento tanto amaro. Ignoravo di poter provare un senso di rivolta così violento. Non riuscii a dir nulla. Vedevo fino in fondo la nullità e l'impotenza della parola. I Kikuyu rimanevano in attesa come un gregge di vecchie pecore. Gli occhi sotto le palpebre rugose fissavano soltanto me. Non potevano rinunciare da un momento all'altro a una cosa a cui si erano preparati con tutto il loro cuore. Qualcuno non riusciva a trattenersi dal fare piccoli movimenti convulsi con le gambe. Erano venuti per danzare e dovevano danzare. Annunciai che l'angoma veniva sospesa. La notizia, lo sapevo, avrebbe assunto un significato diverso per loro, ma non immaginavo quale. Forse si resero conto immediatamente che l'angoma cessava per sempre e del tutto. Non v'era più nessuno per cui danzare, dato che io non esistevo più. O forse pensarono che avesse già avuto luogo un angoma senza uguali, un angoma la cui forza aveva annullato tutto il resto. Nel momento in cui essa cessava, tutto cessava. Un cagnolino indigeno approfittò della quiete per mettersi a latrare a perdifiato. Camante, a cui avevo dato l'incarico di distribuire il tabacco agli anziani dopo la danza, pieno di risorse come era sempre, pensò fosse venuto il momento e si fece avanti con un grande calabash colmo di tabacco. Farà, gli fece cenno di tornare indietro, ma Camante era un Kikuyu. Lui e i vecchi danzatori si intendevano, sapeva il fatto suo. Il tabacco rappresentava qualcosa di reale. Lo distribuimmo fra i vecchi e di lì a poco se ne andarono tutti. Chi più soffrì della mia partenza alla fattoria furono le vecchie. Dopo la dura vita trascorsa, le vecchie Kikuyu sono dure, anch'esse come selci, come vecchi muli che se possono ti prendono a morsi. Resistevano meglio degli uomini alle malattie, lo constatai io stessa curandole, ed erano più selvagge degli uomini, non solo, ma anche più profondamente incapaci di ammirare chicchessia. Avevano dato alla luce molti figli e molti ne avevano visti morire, non avevano paura di nulla. Portavano più di un quintale di legna, fermata con una redine intorno alla fronte perché non cadesse, barcollando sotto il peso, ma indomite, lavoravano nella terra dura delle loro shambas, accucciate con la testa all'ingiù dall'alba fino al tramonto. Di lì cerca la preda e i suoi occhi scrutano lontano. Il suo cuore è incrollabile come sasso, anzi duro come una pietra da macina, si beffa della paura. Quando si raddrizza, disdegna cavallo e cavaliere. Ti rivolgerà molte suppliche? Troverà parole persuasive? Avevano ancora dentro di sé una carica di energia intatta, irradiavano vitalità. Si interessavano di tutti gli eventi della fattoria ed erano capaci di fare 10 miglia a piedi per assistere a un angoma di giovani. Bastava uno scherzo o una tazza di tembo perché il loro viso rugoso e sdentato si sciogliesse in una risata. Quella forza, quell'amore della vita mi sembrava non solo ammirevole, ma stupendo e affascinante. Le vecchie della fattoria mi erano sempre state amiche, mi chiamavano Jerry. Gli uomini e i bambini, tranne quelli molto piccoli, non mi davano mai quel nome. Jerry è un nome femminile Kikuyu per le bambine nate molto dopo i fratelli e le sorelle. E deve avere un particolare significato affettuoso. Alle vecchie ora dispiaceva che me ne andassi. Ricordo Di quell'ultimo periodo, una donna che conoscevo poco e di cui non sapevo nemmeno il nome, credo facesse parte del villaggio di Kategue, fosse la moglie o la vedova di uno dei suoi molti figli. L'incontrai su un sentiero della pianura. Veniva verso di me, portando sulla schiena un fascio di quei lunghi pali sottili con cui i Kikuyu, cioè le donne Kikuyu, perché è un compito che spetta a loro, costruiscono il tetto delle capanne. I pali sono lunghi circa 4 metri e mezzo. Le donne, per portarli, legano insieme tutte le estremità. A vederle passare per la campagna sotto il peso di quegli alti fardelli a forma di cono, hanno la sagoma di certi animali preistorici o di giraffe. I pali di quella vecchia erano tutti neri e carbonizzati, coperti della fuliggine di anni. Evidentemente stava smontando la sua capanna e trasportava i pezzi affumicati così com'erano in nuove terre. Quando ci trovammo di fronte rimase immobile, come fulminata. Mi sbarrava la strada, fissandomi, proprio come si fissa una giraffa quando si incontra in mezzo alla pianura, un animale che vive e sente e pensa in un modo per noi incomprensibile. Poi scoppiò a piangere. Le lacrime le inondavano il viso, pareva una vaca mentre fa acqua sulla pianura. Non dicemmo una parola, né io né lei. Dopo pochi minuti mi cedette il passo. E ci separammo. Ognuna proseguì per la sua strada. Dopotutto, pensai, aveva un po' di legna per cominciare la sua nuova casa. Immaginai come si sarebbe messa al lavoro, legando i suoi pali per farsi un tetto. I pastorelli della fattoria, che dal giorno della nascita mi avevano sempre vista là, invece, provavano un senso di grande eccitazione, di curiosità. All'idea che me ne andassi. Forse immaginare il mondo senza di me dava loro un senso di audace e pericolosa avventura, un po' come immaginare che la provvidenza stia per abdicare. Quando passavo, sbucavano di mezzo alle erbe alte e mi gridavano: Quando te ne vai, Msabu? Msabu, fra quanti giorni te ne vai? Quando alla fine arrivò il giorno della partenza, imparai una strana lezione. Possono accadere cose che noi stessi non riusciamo a concepire. Né prima, né dopo, né al momento del loro verificarsi. Le circostanze possono contenere una forza motrice per cui gli eventi si succedono senza l'intervento dell'immaginazione o della comprensione umana. Sono casi in cui si mantiene il contatto con gli avvenimenti, seguendoli momento per momento, come un cieco che si lascia guidare, un cieco costretto a compiere cautamente un passo dietro l'altro, senza sapere dove sia diretto. Le cose accadono a te, tu le senti accadere, ma oltre a questo non v'è nessun rapporto fra te e loro. Non te ne intendi, non intendi la causa né il significato. Gli animali di un circo probabilmente provano la stessa sensazione durante gli spettacoli. Chi vi è passato può dire in un certo senso di essere passato attraverso la morte. Un passaggio fuori della sfera dell'immaginazione, ma entro quella dell'esperienza. Gustav Mohr venne con la macchina, la mattina presto, per accompagnarmi alla stazione. Faceva fresco e i colori del paesaggio erano smorti. Anche Gustav era pallido e sbatteva di continuo le palpebre. Mi ricordavo un'osservazione di un vecchio capitano di baleniera a Durban. Anche nel più terribile uragano, i norvegesi restano imperturbabili, ma alla bonaccia il loro sistema nervoso non resiste. Prendemmo il tè insieme sul tavolo di pietra come tante altre volte. A Occidente le colline vivevano gravemente un altro momento delle loro molte migliaia di anni. Nelle valli fluttuava una leggera nebbia grigia. Sentivo un gran freddo, quasi mi fossi trovata sulle cime. I miei domestici abitavano ancora nella casa vuota, ma la loro esistenza ormai si svolgeva altrove. Avevano trasferito le famiglie, portato via le loro cose. Le donne di Farah e Saufe erano andate al villaggio somalo di Nairobi il giorno prima con un autocarro. Farah doveva venire con me fino a Mombasa, insieme a Tumbo, il giovane figlio di Juma. Il ragazzo lo desiderava più di ogni altra cosa al mondo, e quando, come dono da Dio, gli era stato offerto di scegliere fra una vacca e il viaggio a Mombasa, aveva scelto il viaggio. Salutai i miei domestici. Uno per uno. Loro, a cui avevo insegnato a chiudere sempre le porte, quando uscii, lasciarono la porta spalancata alle mie spalle. Era un tipico gesto indigeno, quasi volessero dirmi che sarei tornata o mostrare che ormai non c'era più ragione di chiudere la casa, ma tanto valeva lasciarla aperta a tutti i venti. Farà, guidava la macchina piano, al passo di un cammello. Svoltato l'angolo del viale, la casa scomparve. Arrivati allo stagno, chiesi a Mor se c'era tempo di fermarsi un minuto. Scendemmo e fumai una sigaretta vicino l'argine. Si scorgevano i pesci giù nell'acqua. Ora sarebbe venuto qualcuno che non aveva mai conosciuto il vecchio Knudsen e, ignorando il valore di quei pesci, li avrebbe pescati e mangiati. Sirunga, il nipotino epilettico del mio squatter canino, venne lì a darmi l'ultimo addio. Da giorni ronzava intorno alla casa, senza decidersi mai. Quando salimmo in macchina e partimmo, cominciò a correrci dietro. Era così piccolo che sembrava trascinato da un mulinello di vento. L'ultima piccola scintilla del mio fuoco. Ci corse dietro fino all'incrocio. Temevo potesse seguirci anche sulla strada maestra. Mi sarebbe parso di vedere la fattoria sparpagliarsi e disperdersi come una manciata di loppe, ma si fermò all'angolo. Apparteneva ancora alla mia terra. Lo vidi lì, fermo, seguirci con lo sguardo finché non scomparve anche l'incrocio. Sulla strada di Nairobi vedemmo molte cavallette nell'erba. Qualcuna svolazzò perfino dentro la macchina. Stavano tornando ad assalire i campi. Alla stazione trovai molti amici venuti a salutarmi. C'era Hugh Martin, grosso e languido. Quando mi disse addio, lo vidi. Il dottor Pangloss della mia fattoria, come una figura solitaria, eroica, che aveva comprato la sua solitudine a prezzo di tutti i suoi beni. Era in un certo senso un simbolo dell'Africa. Ci salutammo con affetto. Avevamo passato dei bei momenti insieme, fatto molti saggi discorsi. Lord Delamere appariva un po' più vecchio, con i capelli un po' più bianchi e corti di quando avevamo preso il tè insieme nella riserva Masai al principio della guerra, mentre trasportavo rifornimenti per l'esercito, ma, come allora, fin troppo premuroso e gentile. C'erano molti somali di Nairobi. Abdallah, il vecchio commerciante di bestiame, mi diede come portafortuna un anello d'argento con una turchese. Bilea, il servo di Denis, mi chiese gravemente di porgere i suoi rispetti al fratello del suo padrone in Inghilterra. Ai vecchi tempi era stato in visita a casa sua. Le donne somale, mi disse Farah più tardi, venute alla stazione in risciò, scorgendo tutti quegli uomini, si erano spaventate ed erano tornate indietro. Strinsi la mano a Gustav Mohr dal finestrino. Ora che il treno cominciava a muoversi, aveva ritrovato il suo equilibrio. Desiderava con tanta forza di darmi coraggio che arrossì profondamente. Aveva il viso in fiamme e gli occhi che brillavano. Alla stazione di Samburu, mentre mettevano l'acqua nella locomotiva, scesi dal treno per far due passi con Farah sulla piattaforma. A sud-ovest scorgevo le colline del Gong. L'onda nobile della montagna si ergeva sulla terra piatta, tutt'intorno azzurro cielo, ma a quella distanza le quattro vette parevano insignificanti, appena distinguibili, diverse da come si vedevano dalla fattoria. Il contorno della montagna veniva lentamente ammorbidito e livellato dalla mano della lontananza. Fine.